si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, il buongiorno, il weekend di Radio 24, dalle 7.30 fino alle 10 il sabato, dalle 8.30 fino alle 11 la domenica mattina. Subito i nostri contatti se volete interagire con noi in tempo reale, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi, 349-238-6666 se volete scriverci un sms per commentare la rassegna stampa che tra pochissimo andrà ad iniziare, poi come sempre il nostro viaggio nell'attualità della settimana a caccia di buone notizie. Questa oggi cominceremo dopo il giornale radio delle 8, dopo la rassegna stampa, dunque dalla frontiera tra Italia e la Francia a Ventimiglia andremo a vedere in che condizioni, quanti sono gli immigrati che ancora campeggiano sugli scogli in attesa che qualcosa si muova, che succeda qualcosa, chissà che cosa. E forse ci sono buone notizie, perché da un lato pare che la Francia abbia ammorbidito i controlli e quindi qualcuno lasci transitare verso, diciamo, le mete che i richiedenti diritto asilo, i profughi, gli immigrati richiedono, cioè anche la Francia, il Nord Europa, eccetera. Dall'altra, sul fronte degli sbarchi, c'è stato un rallentamento e c'è un bilancio dei primi mesi dell'anno che dice che, insomma, gli sbarchi di quest'anno, la grande emergenza, sarebbe in linea con gli sbarchi dell'anno scorso. C'è stato un rallentamento da questo punto di vista, ma andiamo ad iniziare, vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E dunque, oltre al tema immigrati, sui giornali di oggi il voto, verso la settimana del voto sulla riforma della scuola, poi ancora Roma, Mafia Capitale, il pressing su Marino da parte del suo stesso partito e soprattutto anche la questione della Grecia. Siamo a poche ore da un altro, dall'ennesimo vertice decisivo lunedì prossimo, ma insomma sembra chiaro ormai che ad Atene scarseggiano le risorse, i soldi per pagare gli stipendi, i soldi in banca. Adesso vedremo quali sono le ultime notizie su questo fronte. Iniziamo con proprio col tema invece della scuola, dal Corriere della Sera. Doppio voto di fiducia sulla scuola, la mossa di Renzi per la riforma, e vediamo di che cosa si tratta, perché questo è un tema di cui abbiamo parlato moltissimo i giorni scorsi. O si rinuncia all'ostruzionismo oppure il governo dovrà arrivare all'approvazione del disegno di legge con la fiducia. E questa la notizia ed è l'out-out del premier Matteo Renzi, arrivato ieri mattina dopo un incontro a Palazzo Chigi con i parlamentari del PD, ma anche con le ministre delle riforme Maria Elena Boschi e della istruzione Stefania Giannini. Il dialogo resta aperto, dice Renzi, ma questa è una corsa contro il tempo. L'obiettivo è far approvare il testo dal Senato entro venerdì prossimo, cioè tra 6 giorni, e riuscire a far partire subito che cosa? Le assunzioni dei famosi precari, che altrimenti rischierebbero di slittare al 2016, cosa che il governo non vuole. Anche perché poi la riforma dovrà tornare alla Camera e anche lì l'ipotesi di porre la fiducia il prima possibile, chiudere il tutto al massimo entro la prima settimana di luglio. I sindacati restano molto diffidenti, per usare un eufemismo, se non sul piede di guerra. La CISL sottolinea: Renzi continua a parlare di dialogo, ma che fine ha fatto la conferenza sulla scuola che era prevista e che non è stata fatta? Si farà lo stesso, sostiene lo stesso Renzi, ma nessuno ci ha ancora invitato, replica il segretario della UIL Scuola di Menna, e ricorda tra l'altro la conferenza della scuola del 1990 indetta, indovinate da chi? Da Mattarella, e dice lì la scuola sì che cambiò sul serio. I punti che restano sul tappeto di questa riforma della scuola, per cui si va incontro alla settimana che dovrebbe essere quella decisiva, sono appunto l'assunzione dei precari, però su questo il governo non è intenzionato ad allargare la platea a oltre il numero già stabilito di 100.701 precari. la questione del limite della durata del mandato del preside, qualcuno vorrebbe ridurlo a 6 anni, attualmente nella riforma si prevede 9 anni di durata in carica per i presidi nella stessa scuola, la questione della valutazione dei prof, affidata a un comitato composto da preside, un docente, un genitore e uno studente, e infine l'assunzione a chiamata diretta, perché sapete che dal 2016 ci sarà il concorso, dopo questa tornata di precari assunti ci sarà il concorso, ma oltre ai titoli conteranno gli anni di servizio, e il consiglio d'istituto definirà i criteri in base ai quali il preside con altri docenti, perché non sarà più da solo, nella versione già emendata dalla riforma, il preside non sarà più solo, ma sarà affiancato da alcuni docenti che sceglieranno i prof più adatti per quella scuola lì. E questo, diciamo, sul fronte scuola. Atene, Grecia, sempre dalla prima pagina del Corriere, banche senza più soldi da lunedì. Berlino preme per piegare Atene. Vediamo come approfondisce la questione il Sole 24 Ore. Atene, fuga dalle banche, via dai conti altri 4 miliardi, ma le borse restano ottimiste. La BCE ha concesso alla Grecia liquidità di emergenza per 1 miliardo e 800 milioni di euro, una cifra in grado di coprire le esigenze solo fino a lunedì, il giorno in cui si terrà il vertice europeo. I mercati però scommettono sull'accordo. Borse positive, Milano più 1%. Sentiamo, leggiamo, vediamo cosa scrive il Sole 24 Ore. 4 miliardi di euro nell'ultima settimana, di cui 1 miliardo e 2 solo ieri, secondo Reuters, sono stati, che cosa? Ritirati dai conti correnti greci, senza clamore, con code ordinate davanti ai bancomat delle maggiori banche della capitale. Cifre che però segnalano e segnano burrasca di fronte ai 200-300 milioni di euro al giorno di media ritirati nelle ultime settimane. Cioè, di media ogni giorno in Grecia si ritirano 200-300 milioni di euro in banca. Ieri ne si sono ritirati 1 miliardo e 2, cioè una cifra 4 volte tanto, 5 volte tanto. Perché? Perché nel frattempo i depositi bancari sono crollati ai minimi. 125 miliardi di euro complessivi, erano 240 miliardi 5 anni fa, ma erano 160 soltanto qualche mese fa. Cioè i depositi bancari si stanno in Grecia, si stanno estinguendo, si stanno dissanguando. Tutto questo perché? Perché basandosi su alcune indiscrezioni, scrive il Sole 24 Ore, raccolte durante l'ultimo meeting dell'Eurogruppo a Lussemburgo, secondo cui Benoît Cœuré, membro francese della BCE, avrebbe speculato sull'ipotesi che le banche greche potrebbero non aprire lunedì, nel giorno del vertice straordinario europeo. A questo punto molti greci si sono chiesti se gli istituti ellenici apriranno veramente oppure no gli sportelli a inizio settimana. E così sono andati a ritirare i loro risparmi. Ipotesi questa, diciamo, di una non apertura delle banche lunedì, naturalmente smentita dal ministro delle finanze greco Varoufakis, però questo è quello che sta succedendo. A dare una mano ad Atene è arrivata la Banca Centrale Europea, che ha fatto un prestito, non si sa bene di quanto, non è chiarissimo, lo scrive anche il Sole 24 Ore, non era chiaro a quanto ammontasse l'importo, trapelava però che l'ammontare fosse appena necessario per scavalcare il fine settimana. Dunque la Grecia tranquilla fino a lunedì, questo è quello che trapela dai mercati. Vai a capire poi se è la verità, perché qua i numeri, chi lo sa quali sono quelli veri. Lo scrive anche il Sole 24 Ore. Ah, che tra l'altro poi c'è un commento importante in prima pagina di Carlo Bastasin, che incrocia il tema della Grecia col tema del TTIP, cioè del trattato sul commercio tra Europa e Stati Uniti, che è in corso. Se la Grecia diventa l'inciampo tra Europa e Stati Uniti, e riferisce di una telefonata qualche giorno fa del presidente americano Barack Obama al premier greco Alexis Tsipras per raggiungere rapidamente un accordo con i partner europei. Per Obama è vitale che entro la prossima primavera americani ed europei sottoscrivano il TTIP, il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, che secondo i negoziatori è l'unica via per dare forma al futuro dell'economia globale. La paura è che l'inciampo, a questo punto per l'America sarebbe giusto questo, niente di più grave in Europa, con il fallimento della Grecia, possa poi mandare, diciamo, a così a carte 48, a ramengo, tutta la trattativa invece sul, appunto, sul TTIP, e quindi diciamo rallentare l'entrata in vigore di questo trattato che per gli Stati Uniti è vitale. Tra poco parleremo di sbarchi, sbarchi che sembrano rallentare e che sembrano diminuire, anche di come forse la Francia sta allentando i controlli alla frontiera con l'Italia. Dopo il traffico. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, con ben ritrovati con Si può fare e la rassegna stampa che ci porta dritti dritti al giornale radio delle 8. Poi inseriremo il programma sull'attualità della settimana, sempre a caccia di buone notizie o insomma di un po' di ottimismo. Per esempio, sulla prima pagina della stampa leggiamo: distrutti oltre 400 barconi in Libia, clandestini, crollo di arrivi a giugno. Dopo un periodo di sbarchi massicci, il flusso di migranti dalla Libia si è improvvisamente interrotto, e questa diciamo è una buona notizia per chi rischia la vita da quelle parti e per i centri di accoglienza che sono al collasso, per il nostro paese che è in fibrillazione su questo argomento, fibrillazione non solo politica ma ormai anche sociale, perché sono tanti i punti di critici di emergenza, le frontiere con il nord, il Friuli, la frontiera con la Francia, le grandi città, le grandi stazioni e soprattutto il dibattito politico che ribolle. Però vediamo che da qualche giorno gli sbarchi sono calati e soprattutto sono stati distrutti 400 barconi dall'inizio dell'anno in esecuzione del nuovo atteggiamento anche della nostra marina. Allora, intanto i numeri, Guido Rotolo sulla stampa, l'andamento che si è confermato nelle ultime settimane dovesse essere confermato poi durante tutto l'anno, questo calo degli sbarchi, arriveremo alla fine di quest'anno con gli stessi sbarchi dell'anno scorso, ma al di là delle cifre che naturalmente bisogna aspettare fine anno per fare dei bilanci, sono aumentate le intercettazioni in mare, la nostra marina ora brucia i barconi catturati e ha ridotto il parco a disposizione degli scafisti, con il recupero dei migranti quasi a ridosso delle acque territoriali libiche i natanti vengono sequestrati, distrutti e lasciati alla deriva, oltre 400 i mezzi affondati o bruciati dall'inizio dell'anno. A lunedì dovrebbe iniziare la missione EUNAV4 europea, che prevede tre fasi. La prima, che partirà lunedì, opererà in acque internazionali, prevede la raccolta di informazioni con satelliti, droni, agenti sul campo, intercettazioni. La seconda fase prevede la neutralizzazione dei barconi in acque internazionali. La fase 3 opererà anche nelle acque territoriali della Libia, ma ha bisogno del via libera dell'ONU, al quale si sta lavorando già da un bel po'. Nascosto nel carrello, cade all'atterraggio. Sempre sulla prima pagina della stampa, l'immigrato clandestino volava da Johannesburg, grave il suo compagno. E questa storia è di ieri mattina, ce l'hanno i giornali di oggi, ma è una storia incredibile perché, leggiamola, erano a pochi chilometri dalla meta dopo un viaggio di 13.000 chilometri a 11 ore da Johannesburg, Sudafrica, a Londra, in condizioni terribili, non su un barcone ma nel vano del carrello di un volo di linea, con temperature che scendono fino a meno 60 gradi. Quando il Boeing 747 aveva quasi completato la discesa verso Heathrow, l'aeroporto di Londra, sopra il quartiere residenziale di Richmond, il vano ovviamente si è aperto, il vano del carrello, per far atterrare l'aereo. I due uomini sono precipitati da oltre 400 metri, finendo sul tetto di un negozio. Uno è morto sul colpo, l'altro è gravissimo. Una storia pazzesca. Chissà in che condizioni erano nel momento in cui sono precipitati, se sono morti, se è morto uno dei due, è gravissimo l'altro per la caduta, sicuramente sì, o se diciamo già le condizioni assurde, appunto meno 60 gradi, attaccati al carrello del Boeing, è una cosa che veramente non si riesce a spiegare. La compagnia aerea ha fatto sapere che è un caso rarissimo, una cosa del genere non era mai successa alla British Airways. Però dicevamo, le notizie che arrivano dalla Francia, dal confine con la Francia, da Ventimiglia, da Mentone, sembrano un pochino migliori, perché cosa succede? Lo scrive il Secolo XIX, la polizia alza i toni, la polizia italiana alza i toni e i migranti fanno dietro fronte. Ufficialmente la Francia non molla nessun ripensamento, ma leggiamo liberi. Reportage da Menduno. Sì, siete liberi, spiega il gendarme francese alla frontiera di Ponte San Luigi. Quattro migranti, non ci i quattro migranti nemmeno ci credono, nemmeno sanno bene cosa fare se non incamminarsi sulla strada che porta giù a Garvan, il porto di Mentone. In silenzio, senza nemmeno un sorriso. Li hanno fermati in Francia, a Nizza, li hanno riportati in Italia, ma poi dopo il niente secco della polizia di frontiera italiana a riaccoglierli nel nostro paese, la gendarmeria ha deciso così, andate pure. Passate, successo per questi quattro, sembra un gesto di distensione dopo giorni di muro contro muro, anche se Parigi ufficialmente continua a negare qualsiasi apertura, la nostra posizione non cambia. Però insomma, qualcuno forse sta transitando e questa è la situazione per quanto riguarda Ventimiglia. Ce ne occuperemo anche noi tra poco, dopo il giornale radio delle 8, di questo argomento. L'ultimo approfondimento di rassegna stampa riguarda Roma, mafia capitale, quello che sta succedendo anche all'interno del PD romano. Marino lite col tesoro, scrive Repubblica, non taglio i salari e la giunta resta questa. Gli stipendi dei dipendenti non si toccano, né adesso né mai. Ignazio Marino va alla guerra dopo averla dichiarata a Renzi, reo di aver sfruttato un attacco pretestuoso a lui e alla sua giunta. Il sindaco di Roma allarga il campo di battaglia all'intero governo. Oggetto della contesa è il salario accessorio dei dipendenti comunali che il Ministero dell'Economia ritiene indebitamente aumentato ed erogato nell'era Alemanno tra il 2008 e il 2013 per la cifra monstro di 350 milioni di euro. Anche questa volta Marino va incontro a questioni che non dipendono direttamente da lui, ma è una bomba a orologeria sotto la sua poltrona, perché se davvero ci fosse una revisione di questi aumenti di stipendio concessi da Alemanno, ma che adesso si trova a gestire lui come sindaco di Roma, capite bene cosa potrebbe succedere in una città già in fibrillazione massima come è Roma adesso. A questo si affianca l'inchiesta del PD sui circoli del partito a Roma. Rischiano la chiusura 27 circoli su 110. Fabrizio Barca, incaricato dal commissario Orfini di fare una mappatura di tutto questo, ne ha bocciati 40 su 110, circoli finti, tessere finte. Insomma, il PD a Roma è solo un agglomerato di correnti in cerca di fare affari. Questo lo dice il PD stesso. Ci dobbiamo fermare qua, perché adesso c'è il giornale radio. Torniamo dopo con il programma, apriremo anche il numero verde naturalmente, 800 24 00 24. A dopo. Il segnale orario vi è offerto da: con la rete Interplanet il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Bomi si quota su AIM Italia, info su bomigroup.com. vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, your silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Buongiorno Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Eccoci qua, 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo oggi. Milano Monterosa? Sole, bellissimo, sole. Una giornata stupenda. Sono venuto veramente in metropolitana perché il mio motorino hanno cercato di rubarmelo. Aia. Posso fare un appello contro chi ha cercato di rubare motorino un Liberty matricolato visto, nel 99? L'hai visto? No. L'hai visto bene e non hai neanche riconosciuto come che fosse un motorino. A rubare un motorino così? Come fai a cercare di rubarlo e soprattutto come fai poi a non farcela? Sono andato dal meccanico e gli ho detto: scusami, spiegami solamente, stanno cercando di rubarmelo, perché mi è venuto anche un dubbio. Ho detto: oppure siamo arrivati addirittura a vandalizzarmelo per tipo, non so, rubare una bobina di rame, perché allora diventa veramente un problema da specialisti. Senso, pensa che io quando ho comprato il motorino ho scelto un modello in base alle statistiche sui furti, quello meno rubato di tutti possibilmente. E vabbè, adesso non vorrei portarmi sfiga da solo. No, però è stessa, andata bene. Posso però dirti che la stessa cosa che avevo pensato, siccome ovviamente devo comprare un motorino nuovo, ho pensato la stessa cosa, però poi ho pensato: ma se ma comprati di la bici, Carlo, parliamo sempre di andare in bici, pedala è il nostro, pedala è giusto, è, ma dico, se cercano di rubare tormentone, un Liberty del che ha 16 anni, con su 100.000 chilometri, altri, e vuol dire che non c'è marca che non vogliono rubare. C'è la crisi, Carlo, c'è appunto, la crisi. È questo che sto dicendo. Se addirittura vandalizzano un motorino per rubare una bobina di rame, diciamo che è a rischio la coesione sociale, questo volevo dire. Comunque Carmela La Rucella, che oggi è in regia insieme a noi, dice guarda che rubano anche le biciclette, lo dice a me. Certo, lo so, me l'hanno rubate credo una decina da quando sto a Milano. Beh, io per quello io volevo andare in bici, che la bici me la rubano tutte le mattine, e quindi a un certo punto ho preso il motorino. Oggi a Expo c'è un motivo in più per andare. Pezzi di tranci di pizza così. Come se piovessero. Perché la Coldiretti sta tentando di battere il record della pizza più lunga del mondo, che è stata fatta poco fa. Sì, qualche giorno fa in Calabria, ma la vogliono allungare 1 km 299 metri. È da ieri sera che ci sono un sacco di pizzaioli che lavorano. Oggi verrà estesa la pizza, vediamo se sarà quella più lunga del mondo. Intanto sono previsti 35.000 porzioni di pizza così, gratis. Questo è molto buono, però la cosa che mi spiace un pochino è che la Calabria ha fatto il record l'altro ieri, ma non gli puoi lasciare il record per un po'. No, arriva Expo, poi sai, Expo e deve è fare facile, quella più lunga. C'è il decumano che è lungo, solo quello, insomma, 1,5 km. Sempre a giocare a chi ce l'ha più lungo. Mi sembra che... E comunque le dimensioni non contano, volevamo dire, anche sabato mattina. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo per commentare le notizie. Tra poco andremo al confine tra Italia e la Francia, a Ventimiglia, conosceremo un esponente della Croce Rossa che in questo momento sta assistendo soprattutto quegli immigrati che hanno deciso, per protestare contro quello che sta succedendo al confine, di appollaiarsi sugli scogli e stanno lì. Forse dovremmo portarle lì le 35.000 porzioni di pizza. Beh, è talmente anche lunga perché... che forse ci si arriva anche lasciandola qua a Milano fino a Ventimiglia. In effetti. 800 24 00 24. Però noi oggi vogliamo chiedervi questo. Insomma, l'Italia è scossa da questo dibattito sull'immigrazione. Siamo scossi anche non solo dal dibattito politico, che a volte strumentalizza un po', ci sono state le elezioni, quindi tutto quello che volete, ma comincia a diventare anche un problema sociale, perché alle frontiere, col Brennero, in Francia, nelle stazioni, nelle grandi stazioni delle città, insomma, i problemi non mancano. Però vogliamo rovesciare il punto di vista. Quando avete avuto bisogno voi? Chi vi ha aiutato? Perché insomma, la questione poi alla fine è questa, no? Cioè, quando quella volta che avete forato in autostrada e non c'era il servizio, oppure quando avete finito la benzina, quando siete rimasti fuori di casa, chi vi ha aiutato? Soprattutto sono momenti difficili. Esatto, sono momenti difficili, è molto giusto. Cioè, intanto di ricordarci dei momenti in cui non potevamo fare da soli. Sì. Questo è, nel senso che al di là di storie di assistenza in generale, ma quando tu ti accorgi che non puoi fare da solo, se sei in macchina e hai un problema che non puoi risolvere da solo, hai bisogno d'aiuto. Quando hai avuto richiesto d'aiuto, chi ti ha aiutato? 800 24 00 24. Bye. Bravissimi Mumford & Sons, Babel, Babele, è di questo che parliamo. Così iniziamo musicalmente questo sabato mattina e andiamo al confine tra l'Italia e la Francia. Come detto, parliamo con la portavoce, la Croce Rossa della Liguria, Fiammetta Cogliolo. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, vogliamo chiedervi un po' com'è la situazione lì, soprattutto a Ponte San Ludovico, dove sappiamo che quante persone stanno lì da quanti giorni? Allora, stanno da ormai sono sette giorni, cioè da otto giorni dalla notte di giovedì scorso. Sì. E abbiamo, ieri sera abbiamo contato un 170 persone ancora qui, perché nella giornata di ieri 10 ragazzi hanno chiesto spontaneamente. C'è un problema con la linea con Fiammetta. Ci sente? Noi non la sentiamo più. Forse è proprio decisamente caduta la linea. Allora vediamo se la... Non era su uno scoglio, vero? Sì, glu glu glu glu glu glu glu. No. Che penso di no. Cioè magari sì, anzi, credo che sia lì da quelle parti. Però adesso proviamo a ristabilire il collegamento con Fiammetta Cogliolo della porta della Croce Rossa della Liguria. Insomma, la situazione è questa, lo stava raccontando lei. Ci sono 170 persone, migranti, che stanno sospesi alla frontiera tra l'Italia e la Francia. Vorrebbero passare il confine, ma la Francia non li fa passare, anche se notizia di queste ore sembra che qualche cosa stia cambiando nell'atteggiamento della gendarmerie, che ha lasciato passare qualcuno, forse presi diciamo per stanchezza, e queste persone protestano per questa situazione che stanno vivendo a modo loro, a loro spese, perché stanno lì in riva al mare da otto giorni. Fiammetta? Sì, ci sono, scusate, era caduta la linea, siamo al confine, spesso si allontana. È la Francia che ci boicotta, che succede? C'eravamo preoccupati perché pensavamo fossi caduta in acqua, scusa. No, io sono qua su non sono sugli scogli, ma sono seduta accanto agli scogli. Perché la prima, diciamo, cosa che succede quando come dire, la Francia dice noi non li vogliamo, quando il presidente della Liguria, neogovernatore Toti, dice noi qui non ne accogliamo più di quelli che ci sono, cioè la conseguenza pratica di tutto questo è chi ce l'ha se li tenga. Perché questo è quello che sta succedendo, no? Noi, guardi, Croce Rossa prende atto delle decisioni, mantenendo in ogni caso la presenza costante H24 sia alla stazione che qui a Balzi Rossi, e noi continuiamo il nostro lavoro nei confronti di tutti coloro che hanno bisogno. Quindi la parte politica Croce Rossa non la segue, sinceramente. Siamo qui per dare l'assistenza sanitaria, l'assistenza di viveri, poi ora come sapete è iniziato il Ramadan, per cui è cambiato totalmente la gestione anche da parte sia di Croce Rossa, ma non solo, di Caritas, di tutte le altre associazioni che ci sono. La Croce Rossa francese, da far notare, di Menton, che è presente con noi alla frontiera dal primo giorno e distribuisce viveri, acqua. Quindi almeno su questo fronte c'è collaborazione, questo è totale, questo totale, almeno è bello. Di che nazionalità sono le persone che stanno sugli scogli di Ponte San Ludovico? Chi sono? Allora, molti eritrei, somali, Sudan, qua su Ponte San Ludovico, qualcuno viene dalla Libia, sì, molti, diciamo molte nazionalità. Siriani? Siriani ce ne sono? No. Siriani no, che noi abbiamo, anche perché loro, le spiego, loro non si fanno censire, per cui queste notizie le abbiamo percepite nei giorni quando loro hanno acquistato fiducia con noi, adesso noi parliamo, interagiamo con loro, perché all'inizio erano molto diffidenti, per cui non parlavano quasi nemmeno con noi. Comunque Eritrea, Somalia, Sudan, Libia, si tratta tutti di paesi dove ci sono o guerre o guerre civili, dove ci sono sicuramente condizioni di non sicurezza. Noi abbiamo qui anche un nucleo familiare, con il papà è rimasto in Libia e loro non hanno notizie insomma, di quest'uomo, e loro sono qua che non vogliono, sono i primi a non voler lasciare Ponte San Ludovico scompassi, perché loro sperano di passare prima o poi la frontiera. Ma mi scusi, non si fanno censire, io sono lo stupido dei due, ma non si fanno censire perché, perché nel perché momento in cui vengono censiti sono costretti a rimanere in Italia, giusto? Esatto, glielo esatto, solo per quello. Però diciamo che per quanto riguarda Croce Rossa, ritornando al nostro impegno, noi abbiamo messo a disposizione degli ambulatori mobili con medici volontari, a Ventimiglia in stazione c'è il medico ASL che fa visite tutti i giorni, qui invece a Ponte San Ludovico medici volontari sia di Croce Rossa e anche alcune altre associazioni, e diciamo che la situazione è molto sotto controllo sia dal punto di vista... Sì, non avete paura che possa, se questa situazione dovesse protrarsi, insomma otto giorni così sono già molti, in quelle condizioni, che qualcosa possa, insomma, qualcuno possa sentirsi male, ecco, per esempio. Ma guardi, hanno una fibra incredibile, loro nonostante sia iniziato il Ramadan, per cui stanno sotto il sole tutto il giorno senza bere un goccio d'acqua o cibarsi, sono ragazzi molto giovani, sono ragazzi forti e sembra non subiscano comunque al momento, poi ecco, questo non si può sapere, questa diciamo la situazione, loro non abbiamo percezione che più passano i giorni e più stiano male, ecco, anzi. Ce l'auguriamo naturalmente anche noi. Cosa aspettano loro? Cioè, cosa dovrebbe succedere? Cosa aspettano che succeda prima di muoversi di lì e quindi diciamo di uscire da questa situazione di protesta? Che la Francia apra i confini, solo questo loro. Solo questo. Ma risulta anche a voi che nelle ultime ore, lo hanno scritto i giornali ieri e anche oggi, ci sia stato un leggero ammorbidimento dei controlli della gendarmerie che avrebbe lasciato passare, si dice, 4 migranti, forse più. Noi diciamo... l'abbiamo appreso come voi, sì. Però dai numeri che abbiamo ancora in stazione e che abbiamo ancora qua, ancora oggi, da ieri che è uscita la notizia, ci pare, non lo so, non possiamo dirlo perché noi abbiamo ancora le stesse presenze e quindi non abbiamo la percezione di questo. Sicuramente se l'hanno detto... ma noi non l'abbiamo, ma forse non si può nemmeno dirlo tanto, perché sennò di nuovo qualcuno dice ma come, allora passano o non passano, e poi sì, se stiamo parlando di 4 persone forse non poco, risolvono però, il problema. E poi esatto, e poi comunque come sapete tutti, è inutile che lo ripeta, io lo sto ripetendo tutti i giorni, Croce Rossa ha un impegno totalmente diverso da quello politico e ci auguriamo per loro che si risolva tutto, come a livello umanitario ci mancherebbe, però ecco, la nostra presenza qui ha un significato solo di supporto, aiuto, mediazione. Giusto, è importante ricordarlo che al di là di tutto, qualunque decisione venga presa dal punto di vista diplomatico, voi aiuterete chi sta male, questa è la cosa che mi sembra fondamentale. Ma chiunque esso sia, che sia un migrante o che sia un militare delle forze dell'ordine, certo, che sia chiara la nostra presenza imparziale e come sempre fino alla fine, dove c'è bisogno di noi Croce Rossa c'è. Va bene, grazie in bocca al lupo per quello che fate, a voi e anche alle persone che state assistendo in queste ore a Ponte San Ludovico. Complimenti ai volontari. Complimenti ai volontari. Ieri sera vedevo a Gazebo un'intervista fatta in Germania a un rappresentante di, diciamo, di una rete di migranti che diceva giustamente la questione della Libia è stata creata con la guerra voluta da diversi paesi europei, non solo l'Italia, e direi Francia, la Francia in testa, l'Inghilterra, anche la Germania. Adesso che la situazione è precipitata e che gli sbarchi arrivano in Italia, non possono essere solo un problema italiano i migranti, e questo era un punto di vista detto tra l'altro da uno di quelli, insomma, che coinvolti. Certo, stare appollaiati su uno scoglio in attesa che si crei la possibilità per transitare una frontiera senza avere più nulla davanti e dietro di sé è una situazione di estrema difficoltà, no? Cioè, forse è il massimo che uno può immaginare. Noi da qua oggi partiamo e vi chiediamo, immigrati o no, che abbiate un lavoro o che non lo abbiate, in qualunque stato vi troviate, quando avete avuto bisogno, chi vi ha salvato, chi vi ha dato una mano? Esattamente, chi vi ha aiutato e soprattutto qual è la situazione in cui non si può fare da soli? A me è successo una volta, per esempio, ho finito la benzina in salita su un cavalcavia dell'autostrada, giuro, mi è successo. Sembra l'inizio di un fumetto di Iacovitti, è una perfetto. Cosa pazzesca. Alessio Maurizio in salita. Potevo solo con la arretrare. Macchina. A un certo punto è arrivato dietro di me un furgone, per fortuna è sceso un signore, un camion che lavorava, mi ha guardato, mi ha sorriso e mi ha detto, lei certo che si è messo in una situazione difficile, però è fortunato perché io qua ho una tannica di benzina, no, ho anche l'imbuto, mi ha riempito la macchina e sono ripartito, altrimenti avrei bloccato credo la strada per ore finché non arrivava un carattere. Pensavo si fosse messo dietro a spingerti, era più mitica raccontata così, era ancora più fumettosa, sono stato più era fortunato. Willy Coyote, diciamo. 800 24 00 24, tra poco con i vostri interventi, cari ascoltatori, poi andremo in un posto dove invece, guarda, la presenza degli immigrati è diventata una risorsa pazzesca in un paesino del sud Italia, una storia incredibile. Riace. A dopo. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buon sabato a tutti. Vi aspettiamo all'800 24 00 24. Abbiamo delle telefonate in linea, non riesco a capire. Dalla regia, sì, ci sono. Chi c'è? C'è Anna che chiama da Latina. Buongiorno e benvenuta, Anna. Buongiorno. Buongiorno. Cosa voleva intervenire? Per quanto riguarda chi ha aiutato in un certo momento della vita, sì, io posso dire due affermazioni. Uno, che mi sono sentita io ex comunitaria, sì, quando sono scesa in Calabria, perché ero originaria del sud, del nord, scusi, e per me la Calabria era territorio solo sconosciuto. Sì. E ho trovato persone, amiche, che poi sono diventate amiche, che mi hanno aiutato in un momento molto particolare, perché ero con tre figli, ero in una terra che non conoscevo, ero in un ambiente che per me era totalmente sconosciuto, e loro in modo pratico, cioè, si sono subito avvicinati. Io ero allergica alla Calabria perché avevo una cattiva conoscenza e anche chiaramente delle, così, dei condizionamenti mentali, dove in Calabria mio fratello mi diceva: cosa scendi là che come minimo devi schivare le pallottole. Io cose, ma poi è bello, però racconto intanto di un viaggio nell'altro senso. Il rovesciamento del punto di vista, sentiamo sempre viaggi di chi dal sud viene al nord. È bello anche sentire candidamente il pregiudizio del fatto di un fratello che dice: lì giù dovrai schivare le pallottole. Ma e che cosa è successo? Come mai ti sei trasferita? Si è trasferita in Calabria? Per motivi di lavoro, perché all'epoca lavoravo presso una struttura alberghiera e sono diventata, diciamo, caposala all'epoca. Mi sono scesa in Calabria con i tre figli, c'era bisogno di lavoro e già allora c'era un problema per lavoro. Devo dire che mi sono trovata veramente a vivere le condizioni della persona extracomunitaria. Certo. Perché giustamente io ero la straniera. Sì. E comunque poi ha ricevuto l'aiuto in qualche modo delle persone che erano lì. Sì, cioè, ma il semplice fatto di andare a acquistare qualcosa, sì, chi non sapeva chi ero, dove venivo, eccetera, ero la straniera, quindi i pomodori mi costavano magari 20-30, perché all'epoca era anche le lire, e mi costavano di più. Cioè, le facevano il prezzo da turista, invece lei era lì per lavorare con tre figli. Però questo quanto è durato? Poi l'ha risolto questo problema? Dopo un po' l'ho risolto. Che mi ha impressionato è che mentre noi al nord, prima di far entrare in casa qualcuno e farlo mangiare con noi, ci vuole veramente una vita. Sì. Lì, dopo un attimino che hanno accertato che non fossi la straniera che voleva rubare i mariti, addirittura, fantastico. Qua si aggiungono particolari su particolari. Insomma, un po' dopo poco le hanno aperto la porta di casa. È una bellissima missione. E questa, vedi che nel momento di difficoltà poi si scoprono le cose, delle cose inaspettate, e possono essere anche delle belle sorprese, come è accaduto ad Anna. Grazie. Grazie mille. Grazie, Anna. Andiamo con un altro ascoltatore, Andrea da Firenze. Bello che tu nel momento della difficoltà poi scopri generosità, scopri disponibilità che all'inizio invece ti sembravano inimmaginabili. E soprattutto Anna è bella perché ha detto una cosa bella, che è il modo pratico in cui tutto questo è avvenuto, cioè poche parole che si sta tanto a discutere, in maniera molto pratica. A un certo punto dice: vieni a mangiare a casa mia, ti aiuto, hai bisogno di mangiare, vieni, mangiamo. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi e buongiorno agli ascoltatori. Io volevo raccontare questa mia esperienza in cui mi sono veramente spaventato, perché se non ricordo male era l'anno 2005, ero in Corsica ed ero con amici ad agosto per fare le classiche vacanze estive, e mi sono ritrovato, c'era il mare grosso a dire la verità, c'era anche la bandiera rossa, però io ho ignorato completamente il segnale, l'avviso. Sì. Aia, e che è successo? Mi sono entrato in acqua, poi un pochino mi sono spinto io, un po' sono state le correnti, e mi ha portato sempre più al largo. Io non sapevo come fare, ero entrato anche in un banco di alghe, me lo ricordo benissimo. Che detto così sembra un settore di un supermercato, invece no, giusto? A parte il fatto che sono al supermercato, quindi magari potevo... Ad ogni modo, cos'è successo? Che è arrivato questo ragazzo con la tavola da surf, però ovviamente non surfava, ma è venuto, diciamo, lui era con la pancia rivolta verso il surf, come se remasse con le braccia. Sì, la classica posizione da riposo, insomma, il surfista a riposo. Sul surf. Ok. E l'ha vista. Ma lei che stava chiedendo aiuto, Andrea? Cosa ha fatto? Ha cominciato a urlare? No, sinceramente no, ero preso dal panico. E quindi è stato proprio il surfista ad accorgersi delle sue difficoltà. Sì, esatto. E cosa ha fatto? Mi ha preso con la tavola, in poche parole mi ha fatto capire di aiutarmi con le braccia e mi ha portato verso gli scogli. Sono riuscito poi sulla tavola, anche lei sulla tavola è salito? Sì, esatto. E... beh, è molto bello questo fatto che lei non stava nemmeno chiedendo aiuto perché tante volte addirittura ci vergogniamo di avere bisogno d'aiuto e quindi il fatto che qualcuno venga ad aiutarci prima ancora che noi troviamo il coraggio di urlare infatti, aiuto potessi, mi sembra molto, molto buono. Una specie di carrambata, mettiamola sì? Questo termine orribile. E mi piacerebbe incontrarlo a distanza di 10 anni. Ecco, allora facciamo un appello. Facciamo un appello. Allora, di che anno era? 2005 in Corsica. Era una persona francese, quindi Anche i francesi ascoltano la radio. Certo, più difficile allora, ascoltare la radio italiana. 2005 in Corsica, in che località? Praticamente ero a Moriani, non a Moriani Plage, ero a Marine de Farinol. Ok, Marine de Farinol, questo ragazzo che avrà avuto che età più o meno? Non me lo ricordo, ma penso intorno ai 30 anni. Un ragazzo di 30 anni che adesso ne avrebbe una quarantina e che insomma se lo dovrebbe ricordare lui o qualcuno a cui avrà magari raccontato questo episodio. Magari ne salva uno al giorno. Qualcuno ci ascolta il sabato e la domenica, magari ci sta ascoltando anche loro. Cerchiamo il ragazzo Andrea. Di Marine de Farinol. Grazie. Anche questo è un bel racconto. Cioè, il mare, il panico è un attimo, che ti arriva addosso. E vabbè, questo è un racconto di Andrea, adesso ne sentiremo degli altri. Quando avete avuto bisogno, chi vi ha salvato, chi vi ha aiutato? Questo serve per ricordarci anche, per metterci nei panni di chi adesso ha bisogno, perché facilmente ci si dimentica. 800 24 00 24. Annunciato la storia di una piccola città del sud, un paesino in realtà del sud Italia, nel quale la presenza dei migranti nel corso degli anni si è stratificata di molto, fino a diventare però una vera e propria risorsa. Una risorsa che vale oro, una risorsa che vale la crescita, lo sviluppo anche economico di un piccolo paese del sud che altrimenti avrebbe visto, come spesso capita, di fronte a sé soltanto il declino. Stiamo parlando di Riace, qui con noi il sindaco di Riace, in provincia di Reggio Calabria, Domenico Lucano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno sindaco. E allora, oggi nel vostro paese di quanti abitanti complessivamente? Circa 1800. 1800 abitanti. Però ricordiamolo, è il paese dove sono stati trovati certo. I bronzi di Riace, quindi un posto fondamentale. Un posto che ispira anche una certa solennità, i bronzi di Riace. A Riace, 1800 abitanti, quanti stranieri ci sono oggi stabilmente integrati? Circa 400. Capite bene che stiamo parlando di un quarto, quasi un quinto della popolazione, cioè una percentuale ben più alta di quella nazionale. Beh sì sì sì, sì, ma sì, 5, 6, 7 volte più alta di quella nazionale e con molti meno problemi di quello che invece sembra accadere tante volte su scala nazionale. Ora chiaramente adesso stiamo parlando di emergenza, di sbarchi, di profughi, di centri di accoglienza, è un conto. Invece per quanto riguarda Riace stiamo parlando di un paese nel quale gli stranieri si sono stabilizzati piano piano, si sono integrati, hanno trovato un lavoro. Oggi nel vostro paese ci sono diverse cooperative, molte attività economiche, le case, le vecchie case del centro che hanno ripreso vita. Ci racconti un po' che è successo in questi anni a Riace, sindaco? Guardi, per comprendere meglio bisogna considerare contesto nel quale si svolge tutto questo, tutto quello che lei ha descritto come dal punto di vista statistico, perché intanto Riace è un paese come tutti i paesi dell'entroterra calabro, in cui c'è stata una forte emigrazione. Sì, paesi che si erano svuotati completamente, no? Riace aveva imboccato in un modo irreversibile questa strada, perché l'emigrazione che si è svolta così a ondate più o meno importanti, però ha continuato fino ai nostri giorni, e quindi l'arrivo delle persone, anche se non è solo stato questo il motivo principale così di questa accoglienza, se ne posso permettere, sì, anche in cui è prevalsa anche quella sensibilità umana che è necessaria per Sì, però lei dice, insomma, sensibilità umana che però si è aggiunta a un bisogno quasi che voi avevate, perché per voi l'immigrazione è stato un fatto positivo, perché voi vivevate il fenomeno opposto, l'emigrazione, cioè gente che se ne andava, quindi vi siete, guardi, siete rinati. Io, come sono posto il problema, che ho pensato che senza amministrare la cosa pubblica, cercare delle opportunità per il territorio, per lo sviluppo, quando tutte le persone se ne vanno, che senso ha? Sì. È normale che non si può prescindere dalle persone per i servizi, ma per qualsiasi aspettativa. Allora, l'arrivo delle persone, anche se tutto quello che ha messo in atto questo processo che si è creato con la Riace, è iniziato prima che io diventassi sindaco, sì, lontano 1998, poi che sono diventato sindaco nel 2004, però... Però adesso non ci faccia la storia di tutta la tutti i sindaci prima di lei. No, però ci dica una cosa invece. Oggi il tasso, per esempio, di disoccupazione, lei ce l'ha la cifra nel suo paese? Cioè, voglio dire, queste persone che si sono integrate perché hanno un lavoro, lavorano? Perché una cosa che si dice oggi è che gli immigrati tolgono lavoro agli italiani. Nel vostro caso che è successo? No, veramente l'hanno portato il lavoro. Per esempio... Noi, questa cifra che le ho detto prima, di 400 persone che sono senza Riace, ci sono perché fanno parte di progetti che sono organizzati con il Ministero degli Interni, poi con la Prefettura. Ma ci parli dei lavori che hanno portato, le attività economiche? I lavori che hanno portato, intanto, perché per organizzare l'accoglienza sono nate queste cooperative sociali, queste associazioni che... e gestiscono, per cui c'è un equipe di lavoro Però ci sono anche delle botteghe artigiane, no? Sì, poi l'esigenza così di individuare delle possibilità di integrazione ha fatto nascere queste botteghe dell'artigianato locale, in cui ci lavorano una persona di Riace e uno è un cittadino immigrato. Anche nel campo della raccolta dei rifiuti, è vero? La raccolta dei rifiuti è data una cooperativa sociale dove lavorano due ragazzi, uno del Ghana, uno del Benin. Poi stiamo facendo la riqualificazione di un'area abbandonata di Riace, dove lavorano 6 o 7 tutti cittadini, chi dal Togo, chi dal Kurdistan, della Palestina, del Benin. Insomma, di ogni... Quante nazionalità ci sono oggi a Riace, che sta diventando... Penso almeno di 25 nazionalità diverse. Capite che Riace, 1800 abitanti, 25 nazionalità diverse, è più multietnica di Roma o di Milano. Grazie al sindaco, grazie, dobbiamo mille chiudere. Sindaco, dobbiamo grazie chiudere per il GR. Giusto? Questa storia, sì, bellissima, di Riace, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, vi aspettiamo dopo il GR delle 9. A più tardi. Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re dell'orto. ortolano del poeta dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaudito ne ha quanto il leone. Questa è Si può fare, questa che avete appena ascoltato, che abbiamo appena ascoltato, è Il cielo è di tutti, del gigantesco Bobo Rondelli. Bobo Rondelli che stasera sarà a Firenze al concerto per la giornata dei rifugiati, e lo vogliamo ricordare anche perché vogliamo benissimo a Bobo Rondelli, e vogliamo anche ricordare che questa è la canzone segnalata da Francesco da Firenze. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, sia che voi siate dei compositori, che voi siate dei musicisti, avete composto delle canzoni ad hoc, sia che voi siate semplicemente degli ascoltatori e abbiate sentito delle canzoni che secondo voi sviscerano bene il concetto di Si può fare. Ce le potete segnalare sui nostri account social, quindi sul nostro account di Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter che è chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, questa mattina siamo partiti da Ponte San Ludovico al confine tra Italia e Francia, dove 170 immigrati stanno ancora sospesi al confine appunto tra questi due paesi. Poi abbiamo raccontato il caso del piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, Riace, dove ben 400 immigrati su 1800 abitanti hanno ridato nuova linfa, nuova vita a quel paese lì. Insomma, certo, sono casi particolari, non è che ovunque la presenza degli immigrati fila via così liscia. Però il sindaco ha detto una cosa anche molto bella, sì. Detto, c'è stato un momento in cui ci siamo chiesti: ma che cosa dobbiamo fare qua per questo paese che si sta spopolando e tutti stanno andando via? E adesso dice: il senso c'è invece di occuparsi di questo paese, perché invece il paese si sta ripopolando grazie agli immigrati. Che insomma si stanno dando da fare, stanno cercando così di creare occupazione, lavoro, e in qualche modo ci stanno anche riuscendo. 800 24 00 24, noi vi chiediamo oggi: quando avete avuto bisogno, chi vi ha salvato? Storie personali. Cristina da Verona, buongiorno. Cristina da Verona, c'è? Sì, eccola qua. Eccomi qua, sì, pronto? Pronto, sì, buongiorno, pronto. La sentiamo forte e chiara. Pronto, buongiorno, grazie per avermi chiamata. Ci mancherebbe. Ma ha chiamato lei comunque? Sì, certo, mi avete richiamato. No, perché detto così sembra che chiamiamo noi andando a disturbare il sabato mattina le persone a casa. Assolutamente. Ci dica tutto. Ecco, io volevo portare la mia esperienza di circa 20 anni fa. Io stavo attraversando un periodo personale molto pesante in concomitanza ad un divorzio con due bambine piccole, e mi sono trovata a dover fare velocemente un trasloco. Sì. E quindi ero in un paese della provincia di Verona, abbastanza chiuso come mentalità, il divorzio viene visto ancora come una cosa, diciamo, non proprio positiva. E quindi le donne divorziate non possono traslocare, diciamo, è molto restrittiva come visione. No, non è che non possono traslocare, però diciamo che non è una situazione di emergenza, perché uno se l'è cercato, ecco, diciamo così. No, che c'entra? L'emergenza c'è uguale, ci mancherebbe. Cosa è successo, Cristina? Ci racconti. Ecco, è successo che io avevo una signora che veniva a darmi una mano, una signora marocchina, che veniva a darmi una mano a fare i lavori di casa una volta alla settimana, lavorando con due bambini, ed è stata l'unica anche della mia famiglia, non ho avuto aiuto dalla mia famiglia, che mi ha dato una mano a fare il trasloco. Il marito aveva un furgoncino, mi hanno dato una mano in questo momento particolare, io non me lo dimenticherò mai più nella vita, e ho dovuto impormi, ma in maniera pesante, per riconoscere un qualche cosa economicamente. Dico, il tempo che mi hanno dedicato non potevo assolutamente riconoscere in nessuna maniera, perché mi hanno dedicato tantissimo, ma diciamo è vero che i traslochi sono un momento, guarda, in cui vedi veramente chi ti aiuta, veramente. Chi ti è vicino, chi ti è amico, perché direi quasi che gli amici si vedono nel momento del trasloco, certo. se vogliamo. Una signora con cui avevo un rapporto, diciamo, sì. Per carità, di feeling, però siete ancora lavoro, in contatto? Ecco. Siete ancora in contatto, sì, questa sì, signora? Siamo in contatto dopo 20 anni? E tutto quanto. Bene, si è creata anche un'amicizia in qualche modo. Esatto. Grazie, Cristina, bellissima la storia che volevamo sentire. Bellissima. Grazie mille, buona giornata, buon sabato. Andiamo con un altro ascoltatore, Stefano da Latina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Esatto. Eccolo allora, qua. Avriglia in provincia di Latina. Perfetto. La città fondata dai immigrati, tra l'altro, costruita. Da quali immigrati? Da chi? Perché negli anni 30 non avevano paludi pontine bonificate, è stata costruita da veneti, marchigiani, campani, calabresi, insomma. Perfetto. Mi sembra giusto ricordarlo. E quindi cosa ci voleva dire, Stefano? L'anno scorso, maggio-giugno, più o meno, un caldo incredibile, 35 gradi, gli ultimi giorni di scuola, mia moglie va a prendere con una piccola auto utilitaria che aveva, va a prendere la bambina a scuola, al ritorno, mentre l'auto comincia a fare qualche bizza, e crolla completamente la marmitta dell'auto. Sull'asfalto, un rumore incredibile. Rido, ma immagino che devono essere stati momenti non simpaticissimi. No. Infatti la prima cosa che viene in mente è quella, insomma, fermarsi e chiamare il marito in soccorso. Invece non fa in tempo, era in macchina con la mia bambina di 7 anni, non fa in tempo, si ferma una macchina, un signore, un rumeno, e c'è una grossa comunità rumena qui ad Aprilia, molto ben integrata tra l'altro, si ferma questo rumeno e dice: signore, l'aiuto io, si cala sotto la macchina, comincia a guardare, tira fuori una corda dalla macchina, comincia a buttarsi sotto, si sporca tutto, si lacera quasi i vestiti. Mia moglie diceva: no, lasci stare, guardi, adesso chiamiamo il carattrezzi, qualcosa del genere. E lui: no, faccio io. Insomma, dopo un quarto d'ora di sudore incredibile, perché veramente 35 gradi, mezzo alla strada. Riesce a legare la marmitta. Riesce a legare la marmitta e mette il posto. La cosa più bella della storia è che lui era con un bambino di 7-8 anni, anche con mia figlia praticamente. Questo bambino, fermo lì a guardare il papà, è estasiato, e faceva: mio padre sa riparare tutto. Anche perché i bambini sono molto sensibili a questa cosa del riparare le cose, e se il papà riesce a riparare qualcosa è un momento straordinario. Anche mia figlia, 3 anni e mezzo, ogni tanto Viola me lo dice, se gli aggiusto le cose io ci provo, anche soprattutto per questo, Stefano, per questa cosa. E poi si vantava con tua figlia, giustamente si vantava dicendo: guarda mio papà le cose che sa fare, ecco. Invece il tuo non è qua ad aiutarti in questo momento. È lì che voleva arrivare Stefano. Sua moglie poi quanto gliel'ha fatta, pagare questa cosa? Lei ha detto: va bene, dopo che gli avrà detto a lei, Stefano, insomma, gli avrà detto: sì, se ci fossi stato tu, col cavolo che me l'ha attaccato. È ovvio, come chiunque di noi. Volevo ringraziare questo signore che io non ho mai conosciuto, anche ne approfitto. Siamo felicissimi di essere il mezzo col quale speriamo di riuscire a raggiungere il signore che ha aiutato sua moglie. La moglie di Stefano. Grazie Stefano. Grazie mille. Ovviamente è un caso che fosse un rumeno, non è che adesso vogliamo far passare l'idea che sono che i rumeni sanno riparare meglio le marmitte. No, sono situazioni nelle quali ognuno di noi si è potuto trovare, e quello che vi chiediamo è di raccontarci chi vi ha tirato fuori dai guai. 800 24 00 24. Traffico, torniamo tra un attimo. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta: si può fare, si può fare, si può lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, c'è Piero che ci chiama dalla provincia di Como. Buongiorno Piero. Sì, sono io in provincia di Milano. Comunque di mi avevano scritto Como, l'accettiamo lo stesso. Lo vogliamo lo stesso, sì. Benissimo. Allora, io sono circa 30 anni che vivo in un camper. Sono musicista, suono per strada. E devo dire che la strada, che tutte le persone che ho incontrato mi hanno aiutato in tutte le situazioni, spontaneamente. Non ho mai avuto difficoltà a trovare qualcuno in caso di bisogno. Ma intanto posso dire una cosa, mi sembra già molto bello che descrivi, dici: io sono un musicista e quindi ovviamente vivo in un camper, cioè come se fosse la giusta consecutio. No, musicista, che cosa farà? No. Vivrà in un camper e suonerà. Sono per strada, suono per nelle piazze, suono per le vie. Sei un musicista di strada. Esatto, bellissimo. E quindi niente, cioè, avrei 10.000 aneddoti. Scegliene uno. Sì, a volte mi ritrovo ad essere aiutato da persone alle quali non neanche chiesto aiuto. Una volta ero in Bulgaria, perché giro l'Europa, e in Bulgaria, e ho chiesto a dei poliziotti dove era una certa città contadina da visitare, e me l'hanno indicato, mi sono fermato, ho cominciato a cucinare perché era sera, a un certo punto si avvicinò la macchina, erano i poliziotti, mi affiancano, io scendo, busso al finestrino, non mi guardo, gli offro del caffè, gli detto, volete del caffè? Sì, scendono, io suono un po' la chitarra, risalgo e gli avviso che andavo a dormire. Insomma, sti qui alle 6 di mattina sento che mettono in moto e se ne vanno. Ovviamente erano rimasti tutta la notte lì a proteggermi, cioè non avevo idea che io fossi in un posto pericoloso, e alla mattina alle 6 ha messo in moto e se ne sono andati. Quindi l'hanno fatto la scorta tutta la notte praticamente. Esatto. La vera domanda è che cosa c'è nel tuo caffè che ha tenuto svegli così bene e vigili le forze dell'ordine in Bulgaria? Mi sembra la domanda perfetta. Magari quello è il fatto di farlo con la moca. Certo. Forse stavano aspettando lo zucchero semplicemente, hanno detto è entrato dentro nel camper, ma non esce più, sono 6 ore che aspettiamo lo zucchero. È una bellissima storia. E dei biscottini addirittura. Grazie Piero, grazie. Vabbè, grazie. Anche grazie, questo è stato giornata. Un bel intervento. Tra l'altro, che va a anticipare qualche cosa che sentiremo più avanti, un ospite che si avvicina in qualche modo alla storia di Piero. Adesso invece è il momento di parlare della la lotta che c'è in tutte le città tra il decoro e i graffiti e i writers. Vai. Separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear por la ciudad. Il 15 maggio scorso, durante un cleaning day, i volontari del decoro hanno cancellato per errore non un graffito qualunque, ma un murales vero e proprio che era stato dipinto da Pao, alias Paolo Bordino, che poi poco tempo dopo non si è perso d'animo e lo ha praticamente rifatto, e lo abbiamo qua in collegamento con noi. Ciao, buongiorno Paolo. No, non c'è Paolo. Allora faccio una premessa. Aspetta mentre aspettiamo. Ma avete scritto Paolo Bordino o ho visto male? No, l'avete scritto, sì. Quindi diciamo che fra un poco ci collegheremo, esatto, con Paolo Bordino. Faccio una premessa perché è una casualità che mi fa molto ridere. Tutta questa storia di questo graffito nasce da un video che è stato poi messo su, ripreso dal Corriere, da Repubblica, in giro su tutti i social, è stato stravisto. In questo video c'è un ragazzo che va davanti a questi volontari che stanno ripulendo, Zelanti. Secondo loro, secondo loro stanno ripulendo le scritte, le tag, i graffiti, e stanno coprendo questo murale. Se questo ragazzo dice: ma io veramente ho due figlie e le mie figlie mi chiedono di questo murale fa parte del lessico familiare della nostra famiglia, vogliono le storie di questo murale, se noi veniamo tutti i giorni in questo parchetto perché le mie figlie adorano questo murale, quindi voi non potete cancellare un pezzo d'arte. Questo ragazzo, che è un avvocato e ha due figli, è mio fratello, e questa cosa qui mi ha fatto molto ridere, perché adesso ogni tanto mi fermano per strada, invece che dirmi: ah, tu sei quello di Radio 24, sei quello di Marmellata e Nutella, mi dicono: tu sei il fratello di quello del video di Pao. E Pao adesso ce l'abbiamo in collegamento, stavolta sì. Paolo? Ciao, eccomi qua. Eccolo. Ciao Pao, sono Carlo, tra l'altro, perché conosco anche Pao e mi vanto moltissimo di avere un disegno di Pao dove mi dipinge come un pinguino sulla prima pagina perché del suo libro. Perché lui fa i pinguini, soprattutto, esatto, nei panettoni di cemento. Temevamo un agguato dei volontari del decoro che ti avessero tagliato la linea. Ti avessero anche tagliato la linea telefonica. Sì. La cosa bella di tutta questa storia è che tu hai deciso, l'hai presa sportivamente, il fatto che avessero cancellato un tuo murales scambiandolo in qualche modo per dei graffitacci, insomma delle scritte buttate lì, come spesso ci sono sui muri, e non te la sei presa più di tanto. Ma no, perché soprattutto poi mi hanno chiamato dicendo c'è chi sta protestando perché cancellano il tuo muro, quindi ovviamente ho partito subito con la parte bella della notizia. Che era sempre mio fratello poi, che stava protestando. Esatto, sarebbe era tuo fratello, guarda quanto è piccolo il mondo. Ecco, ma poi hai deciso di rifarlo questo murales a un certo punto? Sì, alla fine in realtà ti dico, se posso dirla, tutta da tanti anni che pensavo che potesse andasse ripreso un pochino. Sì. E quindi, visto che non lo facevo, a un certo punto ho deciso, dai, Paolo, abbiamo anche cancellato il murale, se hai fatto il fondo, vai. Adesso abbiamo rifatto il fondo, è perfetto. È il momento di rifarlo. Ma come vivi questa, diciamo, questa tensione che c'è adesso nelle città? Anche noi ogni tanto ne abbiamo parlato, tensione positiva, no? Per cercare di tenere belle, tenerle pulite, e quindi questa lotta ai graffiti, che però in questo caso, a parte di questi volontari del Cleaning Day, aveva proprio trascimato, no? Era trascesa fino a cancellare quella che era insomma, un'opera d'arte, vedetela come volete, un dipinto comunque voluto e autorizzato dai proprietari del muro. Siamo andati un po' oltre. Come la vivi questa questione? Beh, allora, diciamo tutti gli estremi sono sbagliati, no? Nel senso, quindi c'è anche un'eccessiva pulizia dei muri, si perde qualcosa, perché i graffiti, quando sono creativi, quando sono qualcosa sì. di positivo per la città, la gente è contenta di averli, ci sono dei luoghi dove stanno bene. Tra l'altro è vero che cioè, gli imbrattatori, anche quelli diciamo che non producono opere d'arte, poi non aggrediscono mai i muri dove ci sono dei murales. Cioè, questo per esperienza, tipo sì, vicino a casa raro, mia c'è un murales dietro l'uscita di un cinema. C'è rispetto, ci sono scritte da tutte le parti, ma lì no. E quindi diciamo potrebbe essere una tecnica anche quella, per evitare le scritte sui muri riempiamo i muri di murales belli, però. Beh sì, diciamo, quello a volte uno sceglie il male minore, no? Sì, però sì. Secondo me è una logica secondaria, nel senso la cosa interessante di Via Cesariano è mostrare come quello spazio lì aveva una storia, aveva una sua identità grazie a un disegno e quindi gli aveva dato proprio identità. Esatto, possiamo dire che è la parte interessante al bilancio. Sì, possiamo dire, Pao, che cioè, gli artisti, gli street artist come te, i writers, quelli bravi, cioè, gli artisti e gli animatori del decoro, quelli che vogliono il decoro, che fanno anche il cleaning day, a parte questo caso di Via Cesariano che è andato male, possiamo metterli dalla stessa parte, cioè chi si prende cura insomma delle città in un modo o nell'altro? No, cioè non c'è contrasto. Sì, sono modi diversi, però ci possono essere, ci sono anche effettivamente qualche strana somiglianza. Diciamo, l'amore per la città, poi qui via Cesariana è successo quello che sì. è successo, ma vabbè, meno male che passava di fratello di casa. La città in un modo o nell'altro, secondo me ci deve essere spazio un po' per entrambe le visioni, cioè un po' la pulizia e l'ordine in certe zone, ma anche la creatività e la fantasia in altre. Sì, soprattutto se posso aggiungere, c'è anche una questione che il decoro, con questa parola decoro, diventa un po' strumentale, perché quando si parla di inquinamento visivo, forse bisognerebbe occuparsi di certi cartelloni pubblicitari che sono veramente invasivi, che veramente danno fastidio, nel senso che non sono semplicemente le scritte, a volte dei disegni sul muro forse sono più belli di dei muri grigi, completamente grigi, e appunto l'inquinamento visivo è dato da molte altre cose, a volte anche da certa segnaletica incomprensibile e gigantesca. Sono perfettamente d'accordo, ma tra l'altro è le notizie di ieri che a Milano finalmente dopo 2 anni hanno concesso dei muri, nel senso ma sì. 100 muri, tutti sottopassi, verranno sono lì per dipingere. Ah, poi. Vedi, era un po' che se ne parlava di questa cosa. Questo sì. è molto bello. Speriamo che arrivi prima te a dipingerli piuttosto che ci arrivi prima io, perché io non so disegnare neanche una casetta, quindi speriamo che questi 100 muri te li becchi tutti te, ecco. Quelli bravi come te. Penso che sia una bella occasione per sviluppare anche la creatività di tanta gente e far capire che si può lavorare insieme alla città e un punto, diciamo. Paolo, tu su cosa stai lavorando in questo periodo? Sempre pinguini o anche altri? No, beh, a parte scherzi. No, quali sono i temi? Cose, secondo diciamo, te pinguini... che. I pinguini rimangono come simbolo, diciamo, però sto facendo altre cose. In questo momento sono a San Giovanni Persiceto. Stiamo decorando una un sottopasso gigante, c'è proprio un festival qui dei graffiti, e ho realizzato un'illusione ottica tridimensionale su un angolo molto bella. Infatti oggi la finisco. Ecco, sono, parlaci di queste cose. Io le ho viste. Ho visto una tua mostra non tanto tempo fa, quando ci siamo anche incontrati. Dove, infatti, non sapevo come chiamarla, se chiamarla illusioni ottiche o cose in 3D, perché fa questi disegni che sono incredibili. Che tu, se ti avvicini o ti allontani, il disegno sembra muoversi e senza l'effetto di droghe, giusto? Sì, esatto. Sono molto contento di questa. Questa tecnica che ho trovato, che si chiama retrospettiva, praticamente in retrospettiva inversa, prendo l'angolo concavo e ci disegno qualcosa che invece viene fuori, funziona, e infatti sono molto contento, la gente qui si ferma, io disegno una sorta di cubo e guardandolo gira mentre si muove, va visto dal vivo, però va visto dal vivo, è vero, è l'arte meno radiofonica del mondo, se possiamo dirlo, ci abbiamo provato perché io li ho visti, sono veramente bellissime da vedere. E ti ringraziamo. Grazie mille, Paolo Pordino. Ciao, grazie. Grazie. Buon lavoro. Sono molto contento per mia nipote Anna e mia nipote Marta e mio fratello Alessandro, che finalmente potranno rivedere il murales di Pao sotto casa loro. In via Cesariano, 800 24 00 24. Vi aspettiamo, ascoltatori, tra pochissimo. Sentirsi come papà senza santi da pregare. Si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare. Si può fare. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. 800 24 00 24. Abbiamo messaggi su Twitter, qualcosa sul cosa succede? Twitter, si muove qualcosa? Facebook, Twitter, messaggi SMS. Andiamo con gli ascoltatori al numero verde. Abbiamo Giorgio che ci chiama da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Giorgio? Beh, dunque, io esattamente sono a Roncobilaccio, mi sono fermato appunto perché stavo sentendo. Vicino a dove si trova Pao, che è a San Giovanni in Persiceto, che sta dipingendo un murale se non sottopasso. È vicino a uno svincolo che si sente sempre nel traffico, Roncobilaccio, giusto? Sì, ma proprio diciamo nel posteggio, perché appunto volevo intervenire per dirvi che dunque io faccio il medico e lavoro per le ONG da una vita e quindi ho girato un po' di mondo, e quindi mi fa molto dolore vedere tutte le persone che poi definisco amici incontrati in Sudan piuttosto che in Congo piuttosto che in Afghanistan arroccati su degli scogli. Ma al di là di questa cosa qua, che poi negli anni è diventata una professione, tutto è cominciato, e questa era l'esperienza che vi volevo raccontare di un momento d'aiuto negli anni '80, quando con il terremoto dell'Irpinia, come sempre già medico, parto volontario con un gruppo di militari di 19 persone, veniamo paracadutati nella zona del terremoto, grosso modo l'indomani, anzi nella notte, perché c'erano, non sapevo cosa fossero a quel tempo le effemeridi, e quindi nella zona grosso modo di Sant'Angelo dei Lombardi, e ci ritroviamo nel cuore della notte ad aiutare i terremotati, in realtà calati, paracadutati in una zona di una grande oliveta, con una cartina militare che ci doveva dire dove dovevamo portarci, e in realtà questa località, anche perché era un po' buio e poi la protezione civile non era così sviluppata, tutt'altro che percepibile. In altre parole, completamente disorientati, disadattati, incapaci di fare qualsiasi cosa, compreso di reagire, veniamo aiutati da alcune persone che nella notte emergono dal terremoto. Cioè, io lo sto ascoltando come ascoltavo il professore a scuola, cioè così ipnotizzato, ma questi terremotati, però dove vuole arrivare? Che si aggiungono a noi 19 ragazzi più o meno, ci ospitano e ci offrono una delle più belle pastasciutte in pieno terremoto che io ricordi, e soprattutto ci danno veramente una lezione di, a parte organizzazione, che noi venendo dalla Folgore non eravamo, parlo di un'epoca che ancora precedeva la protezione civile. In che senso dalla Folgore? Faceva parte della Folgore? Sì. Ah, in tutta l'epoca, sì, ero un medico della Folgore. Della Folgore. Che anno era, scusi? Bella, l'Irpinia è del 1900, mi sembra, dell'81. 81. In ogni quindi... caso, comunque, ricordo queste persone, sì, che uscite come, ecco, zombie di Michael Jackson dalla notte, ci aiutarono non tanto e solo a mangiare, a organizzarsi, a vestirsi, sì, a, come dire, a resettarsi, però anche a trovare veramente tutti quelli che poi sono diventati i profili della protezione civile, che ci hanno permesso di rimanere, io specificamente, 3 mesi con loro, trovando amici, fratelli e tutto ciò. Cioè, Giorgio, per stringere, perché fra un quarto d'ora finiamo la puntata. La sì, ma per dire che è stata una lezione di solidarietà. Cioè, lei che è andato lì per aiutare, si è ritrovato, diciamo, in modo veramente, veramente generoso e cordiale. Ha avuto contatti con alcune di queste persone dopo, successivamente? Cioè, le è rimasta la voglia di risentire alcune di queste persone? Indubbiamente sì, ho avuto modo di risentire. Cioè, tornare. Sì, certo, e di per sé, diciamo, come dire, in qualche modo abbiamo condiviso un momento. Ma ci sono persone che sente ancora oggi, dopo tutto questo tempo? Sono persone che sento ancora oggi, sono rimasto dopo molto 30 anni, legato a quelle cose là, come a tutte le altre occasioni che nella vita mi hanno permesso di... Va bene, va bene, grazie Giorgio, grazie, buon viaggio. Grazie, buon mille viaggio. Giorgio sarebbe andato avanti esattamente come il prof che spiega. È bellissimo, è vero, un po' ipnotico, ma è molto piacevole. Sì. Beh, questo è un altro caso, insomma, curioso, no? Cioè, è andato lì ad aiutare come medico i terremotati, si è trovato accolto, porte aperte, disponibilità, generosità. Anche questo è un caso di rovesciamento dei ruoli, e nel momento del bisogno capita spesso. Andiamo con Anna Maria, che ci chiama da Catania. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa grazie voleva intervenire? L'opportunità di parlare. Sì. No, io volevo introdurmi sul discorso dei graffiti. Praticamente, sì, non vorrei passarsi il messaggio che chiunque imbratta un muro può ritenersi un artista e andare a imbrattare i muri. No, guardi, qua quello che abbiamo detto noi è esattamente l'opposto. C'era un artista che è stato scambiato per un imbrattatore. Esatto. Va bene, sono i rischi che si corrono. Sì. Magari mettendo una targhetta e dicendo che è stato autorizzato dal proprietario dell'immobile o dal comune, sarebbe non lo so se c'era, o forse i volontari del decoro forse devono anche un po' studiare, tocca anche un po' studiare, sì, o no, senz'altro, perché non è che Caravaggio può scrivere in una situazione in cui io abito proprio di fronte a un istituto, sì, e praticamente non c'è un centimetro quadro della mia facciata che non sia scritta date, numeri, dediche. Cioè, lei abita davanti a una scuola, Anna Maria? Abita davanti a una scuola? Proprio sì. Allora, che scuola è? Una scuola media? Un liceo? Che scuola è? È un istituto comprensivo, geometra, turistico, scientifico. Quindi ci sono varie età. E le facciate dei palazzi di fronte a questa scuola sono imbrattate dai ragazzi che all'uscita di scuola e all'entrata che io farei, visto scrivono, che mettono anche la classe, sì, di appartenenza. Non volevo essere bacchettona, quindi non sono andata a fare la segnalazione, sì, dei ragazzi, però avevo proposto al preside di dire ai ragazzi che nel periodo estivo facessero come lavoro, io gli avrei comprato il materiale, mi ridipingevano la facciata, quantomeno certo, riparavano al danno, ma non l'hanno fatto perché non si tratta in questo caso di scritte, di disegni artistici, anche particolarmente artistici, sono scritte, artistici. Anna Maria ci sei, sì, sono, sì, scritte così, proprio dediche, nomi, date, cose di questo genere? Proprio brutte. Di tutto, disegni, disegni un po' antipatici, insomma, tipo disegni cose sessuali, genitali, cose sessuali, ecco, è sì, chiaro, sì, a quell'età poi, ci si diverte, sì, così, purtroppo. Ma non sono molto piccoli. Avete provato a ridipingere, a imbiancare? Dopo un giorno è tutto come prima? Non dopo un giorno, ma dopo un po' di tempo. Sì, Anna Maria, mi dispiace perché sì, in questi giorni. Va bene. Io spero che almeno grazie. Abbassate la linea, perché Anna Maria non si sentiva più. Mamma mia, vabbè, questo succede. Ma no, ma assolutamente, certo che succede. Non è che stiamo dicendo che bisogna scrivere il proprio numero di telefono sul muro. No, semmai abbiamo detto il contrario. Che la storia di Paola è una storia contraria. Un artista che è stato, diciamo, esemplificativo, imbiancato. E semmai succede a volte che dove ci sono dei murales anche l'imbrattatore non vanno, perché è come se, non lo so, rispetto fra artisti, sì. Quindi per Anna Maria un suggerimento potrebbe essere: chiamate Pao, fatevi fare un murales, tutta la facciata. E forse i ragazzi non ci scrivono più sopra. Chi lo sa? Cesare da Ferrara, buongiorno. Ciao, ciao. Sono buongiorno, molto felice di parlare con voi. Volevo raccontare un aneddoto che sì, mi è capitato una ventina di anni fa, in epoca, diciamo, di non navigatori. Quando partivi con la cartina, andavi a fare una gita con gli amici, sì, abbiamo deciso di andare a Genova a vedere l'acquario. Sì. Solo che, non conoscendo il posto, così ci siamo persi all'interno dei vicoli di Genova e cercando la strada per, ci eravamo distratti. A un certo punto ci ferma una volante della polizia, perché eravamo passati col rosso senza accorgersene. Ci chiedono i documenti, noi adesso, in quel momento lì, adesso ci becchiamo la multa. Invece, quando ci fanno delle domande e ci chiedono cosa facevamo, siccome ci trovavamo in un quartiere, diciamo, che non era bello di Genova, hanno detto a un certo punto: va bene, dai ragazzi, non vi facciamo la multa, vi accompagniamo. La volante si è messa davanti a noi e ci ha portato attraverso i vicoli di Genova, e l'abbiamo seguito, ci ha portato fino alla, all'acquario, fino all'acquario di Genova, al parcheggio, e ci ha indicato dove era la biglietteria e ci ha fatto, detto, fate una bella gita e via, così. Una bella storia di forze dell'ordine. Sì, perché si parla sempre delle forze dell'ordine sempre come qualcosa di contro, invece di essere vero, a favore. Vero. Eravate passati con rosso, ho capito male. Nel cercare di cercare il porto, diciamo, l'indicazione per trovare la quadra, però forse una multa ve la meritavate, forse, o no? Sì, se eravamo meritati, però in quel caso lì hanno visto che eravamo solo dispersi. Hanno capito che le intenzioni erano buone e vi hanno aiutato. Eravamo 23-24 anni, eravamo fatti una gita così tra gli ma amici, sì, e hanno deciso di portarci. Giusto, condivido la scelta della polizia. Da film quasi, e non so se oggi potrebbe accadere di nuovo una cosa del genere. Ma certo che sì. Grazie Cesare. Beh, sul fatto, insomma, del traffico e della sicurezza stradale, oggi c'è molta più attenzione che in passato, e un semaforo rosso credo che sia difficile oggi chiudere un occhio da parte delle forze dell'ordine. Però è stato comunque, c'è sempre il fantastico mondo le giuro era giallo. Esatto. 800 24 00 24, vi abbiamo chiesto oggi, quando eravate in difficoltà, chi vi ha tirato fuori dai guai, e per noi non sarà facile oggi scegliere la telefonata più bella, più originale, più interessante, a nostro giudizio insindacabile, come accade sempre sabato e domenica mattina, per assegnare poi il premio. Tra poco torniamo dopo il traffico e andiamo a Pompei per parlare della rinascita del grande sito archeologico. Pezzo fiume dei Pink Floyd, un pezzo che si chiama Echoes. Ah, fiume non è il titolo, no, quindi. Che infatti mi sembrava strano. Pronunciato male, perché come si pronuncia questo Echi, Echoes? Bisognerebbe fare un corso di inglese prima o poi, Gabardini, e te. Tu sei il tedesco, io sono malapena l'italiano. E l'inglese, come sapete, ho qualche problema ogni tanto. E infatti fai una battaglia contro l'uso dell'inglese, semplicemente, sì, perché solo per quello, perché, certo, perché non lo so. Perché non capisci. 44 anni fa esatti, i Pink Floyd si esibirono nel 1971 a Pompei in una performance straordinaria resa celebre da un video in cui interpretavano alcune di queste canzoni. E insomma, nella memoria dei più vecchietti, dei più grandi, ma anche di chi a quell'epoca, come per esempio nel mio caso, io sono nato in quell'anno, però l'ho rivisto dopo questo video, ho conosciuto dopo i Pink Floyd, un gruppo straordinario, record di vendite nel mondo. A Pompei c'è una mostra che fa rivivere questo momento particolare ed è solo uno dei tanti tasselli della rinascita di Pompei, ed è con noi il sovrintendente Massimo Zanna, che ritroviamo con grande piacere. Buon sabato. anche lei. Buongiorno. Buon sabato. Eccoci qua. Allora, insomma, questa, io ho detto, è un piccolo tassello. Si tratta di una mostra, un'idea, un pretesto. Questa mostra che sarà allestita, credo, all'interno delle sale del comune di Pompei, no? Sì, la mostra è del comune, organizzata con il comune, sì. Mentre da noi, nello scavo, nell'anfiteatro dove i Pink Floyd realizzarono lo straordinario video, c'è un'altra mostra. Ah, ci dica tutto. Sì, è un'altra mostra che tra l'altro in qualche maniera richiama anche quell'evento, perché è allestita all'interno di una piramide e, come lei sa, il simbolo sull'album The Dark Side of the Moon è una piramide. Esattamente. Lì con la piramide abbiamo giocato, nel senso abbiamo giocato, siamo arrivati Pink Floyd, ma l'origine della piramide è in omaggio a quella mostra che abbiamo allestito contemporaneamente a Napoli, che si chiama Pompei e l'Europa, e che ricorda e ripercorre le tappe della seconda vita di Pompei, come questa ha influenzato la cultura, il gusto, l'architettura europea dal 1748 al fatidico bombardamento del 43. Sì. E così la piramide... In fondo ricorda l'egittomania che si scatenò con i primi scavi di Pompei, perché anche Mozart fu particolarmente influenzato dalla visita dell'Iseio nel santuario di Iside, che fu uno dei primi luoghi scoperti nel Settecento a Pompei e che scatenò una nuova egittomania in Europa. Quindi si parte da allora e si finisce Pink Floyd. E lì nella piramide abbiamo allestito una mostra fotografica con materiale straordinario che è del nostro archivio fotografico, che stiamo digitalizzando con il grande progetto Pompei. Sì. E oltre alla mostra ci sono i calchi delle vittime che stiamo restaurando sempre con il grande progetto. I primi 20 restaurati proprio per la mostra sono esposti all'interno della piramide. Insomma, noi abbiamo fatto diverse volte il punto su come sta andando il grande progetto Pompei, la rinascita di Pompei, i lavori per la messa in sicurezza, ma anche per il rilancio del sito dal punto di vista turistico. Se non ricordo male, verso la fine dell'anno scorso Osanna ci aveva sentito e lei ci aveva detto: beh, insomma, il bilancio dal punto di vista turistico è andato molto bene di questo 2014. Adesso per il 2015 si preannuncia, lei l'ha detto, possiamo fare un nuovo record di visitatori. Beh, guarda, abbiamo fatto il calcolo dell'aumento di visitatori da quando è stata aperta la mostra, ossia dal 25 maggio fino ad adesso, e c'è un aumento del 15%. 15% significa che se il trend è questo, arriveremo alla fine dell'anno con 3 milioni. 3 milioni di visitatori, che sarebbero un record. Sarebbe un record, perché l'anno scorso, dove già si era verificato un incremento del 10%, si era arrivati a quasi 2,7 milioni. Quindi, insomma, quindi sarebbe oltre un altro 10%. Tra l'altro, bisogna ricordarlo, i lavori per la messa in sicurezza del sito, i cantieri sono stati quasi tutti appaltati, iniziati, sono stati spesi quasi tutti i soldi. Ci aggiorna anche su questo? Siamo molto avanti, non solo la cifra di 105 milioni è stata bandita, è stata appaltata, ma abbiamo cominciato a impegnare anche i ribassi che si sono verificati, e quindi si è andato molto oltre la soglia dei 105. Ma la cosa importante è che ormai i cantieri principali, quelli che devono risolvere le criticità a Pompei, sono tutti in corso, le messe in sicurezza delle varie regioni. È partito proprio la settimana scorsa il percorso per disabili, che ci permetterà di far visitare Pompei a tutti, è tutta Pompei, risolvendo tutti i problemi anche delle barriere architettoniche, che in un posto come Pompei, capirà, è abbastanza complicato. Però è un progetto questo di cui siamo molto orgogliosi, e che entro l'inizio dell'anno prossimo, il primo semestre dell'anno prossimo sarà attivo. Ma oltre a questo ci sono poi tutti i restauri delle singole domus, dei singoli edifici, che sono anche in corso. Poco fa ne abbiamo chiuso uno e subito riaperto la casa, quella della Fontana Piccola. Sì. Insomma, Pompei è un enorme cantiere. È un enorme cantiere, è giusto che sia così, però insomma stanno anche riaprendo, appunto, lo stavo dicendo lei, molte domus, soprattutto i lavori, quelli fondamentali per evitare i crolli che ci sono stati in passato, stanno andando avanti. Questa è la cosa più importante. Però ecco, io adesso sto sentendo ancora le note dei Pink Floyd, no? Ma è immaginabile che Pompei torni ad essere scenario di eventi grandi, anche che coinvolgano magari i più giovani, no? Non dico un concerto di One Direction dentro Pompei, perché oggi sarebbe questo, però un paragone un po' agghiacciante, perché confrontare i Pink Floyd con gli One Direction, però oggi musicalmente parlando questo c'è, Pompei che torna a vivere anche con le iniziative, diciamo, di questo tipo, che poi sì, ci sono, perché c'è la lirica, ci sono i concerti. Sì, io dico è fondamentale anche questo aspetto, tra l'altro ti permette di fruire di Pompei anche in orari non soliti, quindi gli orari serali, notturni, e quest'anno abbiamo un programma ricco con la lirica, appunto c'è il maestro veronese che fa la lirica, ma non solo, ci sarà Roberto Bolle a luglio che farà uno spettacolo a Pompei, e ci stiamo attrezzando per l'anno prossimo per avere un programma omogeneo. Vorremmo nominare un direttore artistico che ci segue un po' un pacchetto di altissima qualità da svolgere all'interno del Teatro Grande. E vabbè, complimenti. Grandi novità. Oppure potrebbe esserci, che ne so, un Live a Pompei 2 dei Pink Floyd. Tanto magari, adesso sono i Rolling Stones che hanno suonato al Foro Imperiale, perché non potrebbero suonare insieme reunion dei Pink Floyd a Pompei? Ma pensi che evento mondiale sarebbe stupendo? No, Zan, io sto scherzando, ma pensiamoci. Ma io sono molto favorevole ad iniziative di alto livello culturale che si possono farsi nel sito, e non necessariamente legate all'antichità, ma anche alla contemporaneità. Certo. Perché Pompei è una città che continua a vivere, e noi stiamo facendo di tutto perché questa città continui a vivere. Per cui anche il meglio della contemporaneità può essere ospitato. E noi vi facciamo i complimenti. O Pink Floyd, oppure vengo io a fare la presentazione del mio libro, che è una cosa un po' più piccola, però insomma è più facile, è più facile da organizzare. Grazie. Grazie, Osanna. Grazie mille. Pompei. Grazie per essere stato con noi. Buon sabato. E insomma, sulle note degli straordinari Pink Floyd dobbiamo purtroppo lasciarci. Chi non l'ha visto questo video lo deve vedere. Comunque, tu l'hai mai visto Live a Pompei? No, è una cosa pazzesca, è psichedelico, dura, è un film sette più che un video. Sì, è un video, un film, dura 7 ore, 8 ore, 9 ore, no scherzo, no. Però è straordinario. Dobbiamo dire anche il nostro ascoltatore che oggi vince guida breve itinerari Milano Expo, Stefano da Latina, la cui moglie è stata tratta in salvo da un cittadino rumeno che passava di lì e che gli ha riattaccato la marmitta nel momento del bisogno. E il quale figlio continuava a vantarsi di quanto il padre fosse bravo a riparare le marmitte. È tutto. Ci sentiamo domani alle 8.30 con Si può fare. Ciao da Alessio Morizzi. E da Carlo Gabardini, buon sabato. Grazie ad Andrea Piana, Miriam Lucchetti, Claudio Schettone e Carmelo Lauricella. Ciao, a domani.